Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che parla molto di aziende, di strategia aziendale, di uomini d'impresa. Ha un titolo un po' strano, Il Dragomanno e il dilemma del senso. Ne è autore Armando Marchi. Non abbiamo con noi Armando Marchi perché purtroppo è prematuramente scomparso negli anni scorsi, ma ha lavorato molti anni nel campo editoriale e negli ultimi anni alla Barilla. E abbiamo con noi, e lo ringraziamo, il presidente della Barilla, Guido Marchi. Maria Barilla. Buonasera, dottor Barilla. Buonasera, buonasera. Allora, Armando Marchi, una figura forse poco conosciuta, ma con questo libro, Il Dragomanno e il dilemma del senso, edito da Guerini Associati, è un po' un insieme appunto delle sue idee, della sua forza e in fondo anche del suo tentativo di portare il senso, il valore del senso all'interno dell'azienda. Ecco, innanzitutto spieghiamo il titolo. Il Dragomanno, nella tradizione dell'Impero Ottomano, è colui quale fa da interprete delle lingue musulmane per i ceppi linguistici europei, quindi è un custode un po' della tradizione, un po' della perfezione, ma è anche qualcuno che si fa interprete. Perché il titolo di questo libro è appunto Il Dragomanno e il dilemma del senso, Guido Barilla? Beh, sicuramente perché Armando Marchi è stato un profondo interprete della vita aziendale, avendo l'opportunità di avere, diciamo, un bagaglio culturale di livello straordinario e un occhio capace di interagire con l'azienda, ma anche di avere un senso critico molto elevato. Lui entrò da noi attorno al 97, cominciò a collaborare proprio con me. Vivemmo anni, direi, molto interessanti in un periodo nella società particolare, con grandi cambiamenti, grandi anche turbamenti. E tutti noi, ed io anche in particolar modo, ebbe in lui un appoggio morale, intellettuale significativo, proprio per questa sua capacità di leggere dall'esterno e con un grande livello di astrazione la nostra, la definisco piccola vita dell'organizzazione, perché ogni azienda in realtà è un microcosmo molto autoreferenziale, molto concluso in se stesso, con molto spesso delle visioni davanti ristrette a causa dell'impellenza, degli impegni, delle cose da fare tutti i giorni, che sono sicuramente, diciamo, incontri, riunioni molto anche operative, e spesso si perde quella luminosità di visione che è necessaria. Ecco, Armando non abbandonò mai questo atteggiamento indagatorio. Devo dire, non privo anche di lunghi silenzi, lunghe riflessioni che erano proprie della sua caratteristica, del suo modo di interagire. Ecco, Giulio Sapelli, nella introduzione, nella prefazione del libro, parla di Armando Marchi come di un raffinato intellettuale che difficilmente si può ritrovare nell'oggi quotidiano e che è stato per anni testimone dell'essere e testimone vivente del tentativo di trasformarlo, quell'essere, a partire dall'impresa nella modernità. Ecco, è possibile essere intellettuale all'interno di un'impresa e portare il senso poi della cultura, quindi della persona, all'interno di un'impresa che è per sua natura orientata al business? Guido Barilla. Dunque, innanzitutto è sicuramente possibile essere intellettuali in un'impresa. La cosa molto più complicata è essere integrato da intellettuale in un'impresa, perché l'impresa di per sé ha un meccanismo non centrifugo, è l'opposto, non mi ricordo come si dice, cioè sì. Tende a rigettare qualunque anomalia al suo corpo stesso. E un intellettuale nel modello, diciamo, culturale dell'impresa di oggi, in un'impresa che si adopera in un mercato rapido come quello dei beni di largo consumo, diciamo, fa fatica a gestire il pensiero diverso. Mentre io ritengo che più che mai in questo momento di grandi cambiamenti sia necessario ascoltare la diversità, ma la vera diversità, non quella finta che ognuno di noi proclama ogni giorno di volere o alle quali desidera accedere, ma la diversità profonda che pone grandi domande, che sono quelle che possono generare i forti cambiamenti operativi e anche, secondo me, sono fonte di innovazione anche sui prodotti. È un continuo anche rimettersi in gioco. Ecco, parlando del Barilla Lab, per esempio, Armando Marchi scrive: la tecnica e il positivismo debbono fornire spiegazioni, ma la storia ci insegna che ogni spiegazione è sempre fallibile e rivedibile, che non esistono certezze. Ecco, proprio in questa inesistenza della certezza, in questo tentativo continuo di migliorare, c'è un po' il senso di una logica che in fondo ha fiducia anche nelle persone, nelle possibilità delle persone di dare ciascuna il proprio apporto all'interno di un'impresa. Non c'è dubbio, lei ha detto delle cose dove sinteticamente molto profonde, nel senso che un'impresa per operare ha bisogno, non c'è dubbio, di certezze, di valori condivisi, di una strada chiara, di obiettivi anche raggiungibili in tempi relativamente rapidi. Però il management illuminato e anche l'imprenditoria e l'azionista illuminato dovrebbe riuscire sempre ad avere una certa forma di instabilità, che è un'instabilità intellettuale che gli pone delle domande evolutive, cioè se tutto ciò che stiamo facendo servirà ancora domani, servirà ancora ad essere capace e sarà sufficiente domani ad essere capace di rispondere a qualche cosa che cambia continuamente, che diventa fuggevole. Il mondo diventa sempre più labile, sempre più trasparente, sempre più di liquido, qualcuno lo definisce, è difficile da essere non solo letto ma anche proprio compreso, per cui questo modo e il modo come Armando poneva, diciamo, molti degli argomenti a cui era esposto, dava la possibilità a chi gli stava vicino ed era diciamo paziente o capace di ascoltare, e ripeto, di ascoltarne anche i silenzi, che molto spesso dicevano molto di più di tante parole, gli dava appunto la possibilità di riflettere maggiormente su tanti fatti. E c'è un richiamo, pensando proprio al tempo in cui è stato scritto questo libro, prima della grande crisi, al richiamo all'etica che deve essere qualcosa che fa parte dell'uomo contemporaneo, che fa parte anche dell'impresa. E scrive Armando Marchi: etica, economia e politica non sono compartimenti stagni, meglio rifarsi a Max Weber, per il quale la decisione su quali questioni indaga lo scienziato sociale implica e deve implicare valori etici. Anzi, lo studio dell'etica può beneficiare da uno stretto contatto con l'economia. Ecco, lei da imprenditore, da leader di impresa, e molto spesso Marchi richiama alla responsabilità del leader dell'impresa, sente questo peso dell'etica. Guido Barilla. Non c'è dubbio, l'etica poi intesa da Marchi era un'etica, come appunto lui definisce, weberiana, molto più profonda della parola sintetica che molto spesso noi utilizziamo oggi, qualche volta anche a sproposito. Il concetto dell'etica è, oltre, diciamo, al comportarsi bene, sprofonda dentro la disciplina, la continuità, il valore della ripetitività, la capacità della profondità del pensiero, la capacità della rinuncia, della valutazione, diciamo in modo calvinistico, del ruolo della persona che lavora, collabora non per un fine definito e disegnato immediato, ma per qualche cosa che ha un fondamento anche morale, comportamentale, cioè vale il percorso e non il raggiungimento di un obiettivo definito. E in questo senso penso che avremo tutti molto non solo da imparare ma anche da riflettere, perché gran parte della crisi della nostra modernità sta secondo me in queste semplici riflessioni, cioè noi dovremmo valutare bene la differenza tra obiettivo e percorso, perché in realtà la vita, anche la vita imprenditoriale, operativa, di un'azienda, di un'organizzazione e delle persone, sono un lungo percorso all'interno del quale vanno trovati dei valori di continuità. I valori non sono raggiungimento di obiettivi che non sono né finanziari, né economici, né diciamo di carriera, eccetera. Ma i valori sono molto spesso più spalmati nel tempo e sono dati proprio dal percorso. Ecco, quindi questa voglia, questa passione forte di Armando Marchi per la formazione delle persone, infatti lui è diventato un formatore, una passione per riuscire a trovare in ogni persona le proprie potenzialità, le proprie capacità, sempre con un ottimismo di fondo. E in fondo mi sembra di leggere, io non ho conosciuto Armando Marchi, mi sembra di leggere con un po' di ironia, non con superficialità, ma con la capacità di essere giustamente distaccati e quindi di cogliere i risultati per quello che possono dare, nella convinzione che si può sempre fare meglio. Possiamo concludere così, Presidente Barilla? Sì, possiamo concludere. chiudere così dicendo e portando un'idea di Marchi che era fondamentale. Lui aveva questo pensiero forse un po' utopistico, che attraverso e soltanto attraverso, anche in un'azienda operativa, un profondo percorso formativo si potessero superare delle situazioni di crisi o comunque anche migliorare il sistema. Noi abbiamo appreso da lui molto in questo periodo, gli dobbiamo moltissimo. Il libro postumo, ahimè, riassume e concentra il suo pensiero, e penso che il libro vada letto senza ansia e devo dire anche con tempo, lasciando magari sospese delle pagine a riflessioni future, poi riprese, perché dà la possibilità veramente di approfondire e riflettere su alcuni temi che non sono immediatamente evidenti e possono ritrovarsi nel tempo, nel futuro. Grazie mille, grazie al presidente Guido Barilla, che ci ha parlato del libro di Armando Marchi, Il Dragomanno e il dilemma del senso, scritti editi e inediti, edito da Guerini Associati, un libro che raccoglie appunto gli scritti di Armando Marchi, che è prematuramente scomparso nel 2008 e che aveva negli ultimi anni lavorato in Barilla come responsabile delle relazioni esterne e poi dei Barilla Lab. Ringrazio anche Valeria Bernardi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato nel sito www.radio24.it. Grazie e buona serata a tutti.